America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Is going to ensure a steady stream of good jobs into the 21st century. And that's why we're here today, to take new action to put America at the forefront of 21st century manufacturing. Barack Obama che parla di investimenti negli Stati Uniti, ha introdotto una serie di iniziative per facilitare gli investimenti americani e adesso l'America, Obama, vuole invitare gli stranieri a venire a investire negli Stati Uniti. Ci sarà a partire da lunedì a Washington un convegno, una specie di grande vertice di due giorni che si chiama Select USA. Che cos'è Select USA? È un'iniziativa del governo americano, è un'iniziativa che parte direttamente da Barack Obama, ma poi si è diramata sia sul Dipartimento al Commercio che sul Dipartimento di Stato, e prevede l'assembramento di missioni di potenziali investitori negli Stati Uniti. Da moltissimi paesi, ci saranno credo una sessantina di paesi, tra cui l'Italia. E dall'Italia ho saputo che ci saranno 41 aziende che arriveranno per partecipare a questo incontro. Come si svolge? Beh, dal punto di vista tecnico è molto interessante, nel senso che le aziende arrivano, partecipano prima a degli incontri plenari e dopodiché possono andare a sentire delle opportunità di investimento che possono esserci nei vari stati americani. Ecco, vi dicevo, per l'Italia ci saranno 41 aziende, fra queste per esempio il gruppo Pozzi, Todds, Pharmagen, Egi Motors, Arete, Cocchi, Plastica, Alfa e così via, così via. Una diversificazione settoriale molto importante, una delegazione che sarà guidata da Riccardo Monti, che è il capo dell'ICE, di circa 96 persone. Proprio l'ICE ha firmato un accordo con il Dipartimento al Commercio perché questo esperimento possa avere una valenza anche al contrario, cioè sia possibile in un futuro di fare delle cose simili in Italia con l'aiuto degli americani. Però c'è un punto fisso in tutto questo, e cioè che non si può pensare alla crescita in un contesto nazionale se non si guarda fuori dai nostri confini. Io so che ci sono molte tensioni all'interno del nostro paese, per esempio i sindacati che dicono: come voi investite all'estero, tenete il lavoro a casa, eccetera eccetera. La realtà è che bisogna andare fuori, c'è un mercato globale, ci sono altri paesi europei che sono stati straordinariamente attivi, che hanno investito all'estero, ci sono grandi aziende come la Siemens che, pensate, occupano 100.000 persone negli Stati Uniti. Per esempio il gruppo editoriale tedesco Bertelsmann, che controlla Random House, che è la più importante casa editrice americana. E dunque ho con me ai microfoni di America 24 un imprenditore italiano, un medio piccolo imprenditore italiano che ha fatto il grande passo al di là dell'Atlantico, che si chiama Abramo Manfrotto, amministratore delegato di ALU. Buongiorno Manfrotto. Buongiorno a lei. Allora, lei ha fatto questo salto dall'Atlantico già da qualche anno, mi sembra, però cominciamo col dire questo: per una persona che in questo momento in Italia ci ascolta e fa un business di qualunque genere, magari è intimidito dall'idea di venire in America, deve esserlo oppure si deve buttare? Perché in fondo qua poi il modo di fare le cose, se c'è il prodotto, c'è. Non deve essere intimidito, perché sicuramente questo è un mercato che presenta, sia dal punto di vista delle opportunità nel paese, ma anche e soprattutto con espansione al di fuori degli Stati Uniti, presenta del potenziale enorme. Le devo dire che mettere in piedi una società negli Stati Uniti è molto più semplice che non farlo in Italia. Hanno una legislazione che è molto più snella, sono molto più propensi all'impiego, sia dal punto di vista delle assunzioni, dal punto di vista delle dimissioni eventualmente. La mentalità nel paese ovviamente è quella degli americani. Quando veniamo qui dobbiamo venire non come gli italiani che vogliono venire negli Stati Uniti e continuare a fare mestiere nella stessa maniera in cui siamo abituati a farlo a casa nostra. Al di là dell'investimento, che può essere molto diverso a seconda che ci sia un'azienda manifatturiera in un settore pesante oppure qualcuno che faccia un negozio, eccetera eccetera, voi operate su un settore molto particolare, e quello che mi interessa è capire per esempio il costo di gestione per un'azienda media piccola che decida di venire a operare negli Stati Uniti. Intanto, qual è il vostro lavoro? Qual è la vostra specialità? Allora, la nostra specialità è arredamento per negozi, e noi facciamo tutto quello che va dalla parte creativa, passando poi alla parte di ingegnerizzazione, quindi lo sviluppo tecnico, fino alla produzione. Ecco, questo mi interessa molto, perché non stiamo parlando della casa di moda che deve avere un marchio, non stiamo parlando, non so, dei Ferragamo, degli Armani, eccetera eccetera, non stiamo parlando di grandi aziende, la Finmeccanica che ha aperto un impianto per fare elicotteri in Pennsylvania. Qual è, diciamo, un giro d'affari necessario e un costo più o meno necessario per operare una cosa di questo genere? Come siete strutturati voi? Cosa avete? Allora, innanzitutto noi abbiamo deciso di entrare negli Stati Uniti da quella che è la porta principale, la più importante, che è New York. È anche la più costosa in assoluto, perché New York è la città più cara in termini di affitto, in termini di stipendi. Ci sono molte aziende italiane nel settore dell'arredamento che scelgono di andare nel North Carolina, per esempio, dove gli affitti, gli stipendi sono molto più bassi e utilizzano quelle basi come punto di distribuzione nel mercato americano. Quindi quei vantaggi fiscali, di costo, eccetera, eccetera. Esatto. La scelta di New York è stata importante, è stata chiave, perché vogliamo essere attrattivi per tutti quei marchi di un certo tipo, di un certo livello, che operano da New York e comunque che vedono New York come un punto di riferimento. Quindi abbiamo scelto di sopportare dei costi superiori a quelli che avremmo potuto avere in altre zone degli stati centrali, sì, degli Stati Uniti. Per noi i costi sono abbastanza elevati. Abbiamo uno showroom a Soho, nel centro di New York, e un magazzino dove abbiamo parte del nostro personale e tutto lo stock nel New Jersey. Quanta gente occupate negli Stati Uniti? Abbiamo circa una trentina di persone in questo momento, e lo showroom di New York viene utilizzato come sala espositiva dove organizziamo anche tutta una serie di eventi durante tutto l'anno. Il costo di questa operazione, diciamo su base annuale, per poterla gestire, quanto dovrebbe pianificare un investitore per un'attività che abbia un centro di distribuzione, un negozio al pubblico e una trentina, quarantina di persone? Noi non vendiamo al pubblico, vendiamo direttamente alle aziende, sì, quindi la nostra attività di business to business. Sì. Paghiamo circa $650,000 l'anno di affitti e abbiamo circa $2,200,000, $2,500,000 di stipendi. Quindi diciamo circa $3 milioni. Circa 3 milioni di dollari. Di gestione, incluso tutto, stipendi, eccetera, eccetera, senza gli acquisti. Beh sì, senza il valore del magazzino, degli acquisti, viaggi o eventuali altre spese. Certo, ecco, e fatturato americano? Noi siamo oggi circa sui $20 milioni fatturato americano, però la cosa importante da dire è che per noi la presenza negli Stati Uniti non rappresenta soltanto il mercato degli Stati Uniti, ma dà del potenziale al di fuori di questo paese. Noi riusciamo a generare fatturato in Europa, in Sud America, attraverso contatti fatti negli Stati Uniti. Esatto. Ecco, produzione oggi soprattutto in Italia, per quanto? Circa l'80% in Italia, però tendenzialmente noi vorremmo produrre il più possibile vicino al mercato di sbocco, quindi in questo caso negli Stati Uniti. Quindi pensate anche di venire negli Stati Uniti. Certo. Ecco, cosa rappresenta il fatturato americano sulle vostre vendite globali? È un fatturato importante? Certo, noi oggi siamo arrivati a circa il 60% del fatturato globale negli Stati Uniti. Addirittura? Certo, quindi per noi la scelta di venire negli Stati Uniti è stata una scelta vincente, e a chiunque me lo chiedesse direi sì, provateci. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, e sono ancora qui con Manfrotto, amministratore delegato della ALU di Bassano del Grappa, tra l'altro non l'abbiamo detto, quindi da Bassano del Grappa a New York. Dunque siamo alla canzone del giorno. Manfrotto, perché non la sceglie lei? Adesso è a New York, non è a Bassano del Grappa, quindi che canzone vogliamo proporre? Cosa le viene in mente? Viene in mente Blunderbuss di Jack White. Blunderbuss di Jack White. Had my dream, I held your hand on that broad avenue. We crossed the road and never spoke to another as we flew. We left your man alone and drag, laughing there at us. A romantic bust, a blunder tongue, explosive blunderbuss. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.